Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, una buona giornata a tutti da Deborah Rosciani. Allora, ogni estate, ormai l'abbiamo capito, è il suo tormentone da qualche anno a questa parte. Non c'è estate che si rispetti, che non abbia il suo crack nel settore del turismo. C'è poco da ridere, si rovinano le vacanze a molti turisti, ma anche a molte persone che lavorano in questo settore. Dopo Todomondo e Maier, di cui abbiamo fatto un lungo parlare l'anno scorso, quest'anno tocca Viaggi del Ventaglio, un gruppo molto noto anche nella comunità del turismo internazionale, sul quale è calato il sipario dopo ben 34 anni di attività. C'è un buco nella gestione finanziaria di qualcosa come 200 milioni di euro. Nei giorni scorsi si era detto che ormai da mesi le agenzie non vendevano più pacchetti vacanza legati al Ventaglio, eppure dai giornali degli ultimi giorni abbiamo appreso che sarebbero arrivate centinaia di denunce alla Procura di Milano, che sta portando avanti l'inchiesta su questo nuovo crack, che forse è stato un po' sottovalutato, anche perché le notizie circolavano già da diversi mesi. Si parla di 16.000 famiglie a vario titolo coinvolte e truffate, insomma vittime di questa bancarotta. Allora, noi come sia stata ricostruita questa cifra non siamo riusciti a capirlo. Ci sono, sì certo, diverse società riconducibili al marchio Viaggi del Ventaglio, ci sono i soci di Vacanze nel Mondo, che permetteva un abbonamento vacanze di tipo pluriennale con l'acquisto di pacchetti in multiproprietà, e questi sicuramente hanno pagato per qualcosa di cui non potranno più usufruire. E soprattutto molti consumatori stanno animando molti blog in questi giorni denunciando come siano appunto rimasti invischiati in questo nuovo crack. Noi abbiamo letto numerose testimonianze di questi blog, poi magari ve ne leggerò anche qualcuno, abbiamo stampato alcune di queste testimonianze. In sostanza, però, la domanda che ci facciamo adesso è: che cosa si fa? Come saranno risarcite queste persone? 16.000 ci sembrano un po' tante. Adesso poi chiederò qualche commento su questo anche agli interlocutori che abbiamo invitato stamattina a Salva Danaio. Peraltro, questa è una compagnia che prima dell'avvio della procedura fallimentare navigava in cattive acque da tempo, era inserita nella blacklist della Consob perché è una società quotata, e anche lo scorso anno ci capita di commentare questa situazione, per la verità parlando delle altre due vicende, Todomondo e Maier. Però il gruppo aveva garantito appunto fino a quel momento, regolarmente organizzato, tutti i pacchetti vacanza proposti a catalogo, per cui ci eravamo anche sentiti di un po' rassicurare le persone che si erano rivolte a noi proprio in cerca di rassicurazioni. Ci siamo sbagliati anche noi? Non lo so, insomma stamattina ritorniamo un po' a commentare questa vicenda per capire, ripeto, soprattutto le famiglie che hanno pacchetti vacanza acquistati, cosa devono fare a questo punto. Funziona il fondo di garanzia del Ministero del Turismo attivato proprio per risarcire chi si ritrova a dover gestire queste situazioni spiacevoli? Allora, abbiamo richiamato di nuovo il presidente di Astoi, l'associazione dei tour operator, Roberto Corbella. Presidente, buongiorno, bentornato a Salva Danaio. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti voi. E poi stamattina abbiamo con noi il presidente dell'associazione Casa del Consumatore, che è l'avvocato Giovanni Ferrari. Avvocato, buongiorno e benvenuto anche lei a Salva Danaio. Buongiorno. 800 24 00 24 è il numero verde che vi dà l'opportunità di intervenire nella nostra trasmissione. Se in qualche maniera siete coinvolti in questa vicenda, raccontatecelo e vi daremo qualche orientamento su che cosa si può fare a questo punto. 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi. Rapidamente, la borsa, vi ho già dato qualche anticipazione nel GR, positiva stamattina. Parigi sta guadagnando quasi 2 punti, Francoforte più 1,34, Londra più 1,64, Milano più 1,45. A Milano tiene banco il caso Fiat, che ha comunicato una trimestrale piuttosto buona, ma soprattutto ha varato formalmente lo spin-off della divisione auto. Il titolo balza del 6%, anche se questa era una notizia che già si conosceva, però evidentemente la conferma dal consiglio di amministrazione del gruppo trova il riscontro degli operatori di mercato. Anche Exor, l'azionista di riferimento, un più 3,25%, bene Italcementi che riorganizza la sua struttura finanziaria, guadagna il 3,37%, Prismian più 3, Autogrill più 2,57%. Segno meno solo su Fondiari Assai, che perde lo 0,39 euro su dollaro a 1,28 e 32, occhi puntati sulle numerose trimestrali ancora in uscita. Ieri dagli Stati Uniti sono state diffuse quelle di Yahoo di Apple, ieri di Goldman Sachs, quelle tecnologiche sono piaciute, ieri quelle di Goldman Sachs un po' meno, ma in ogni caso Wall Street ieri ha chiuso positiva. Lasciamo la borsa, ritorniamo ai crack nel settore del turismo ed è la volta di Viaggi del Ventaglio. Andare in vacanza dopo un lungo inverno di lavoro, ma poi essere abbandonati sotto il sole rovente di luglio dal proprio tour operator, o addirittura non andarci proprio. Un copione che sembra ripetersi ogni estate. Un operatore turistico viene dichiarato fallito, ma sul sito la società continua ad offrire pacchetti da sogno agli sprovveduti vacanzieri. E così, dopo MyAir e Todomondo, protagonisti dell'estate 2009, è la volta dei Viaggi del Ventaglio, un vero e proprio simbolo dei pacchetti vacanza made in Italy, fallito la scorsa settimana. Le domande sono sempre le stesse. Chi ha già pagato e non è partito, riavrà almeno i suoi soldi? Chi si trova all'estero in piena vacanza riuscirà ad uscire dall'albergo senza ripagarsi il soggiorno? La compagnia aerea li riporterà a casa? Insomma, si preannuncia un'altra estate di passione sul fronte dei viaggi organizzati. Ai telefoni del Ventaglio il personale ancora risponde, avvisa che non sono più operativi, che non si accettano prenotazioni e che il curatore fallimentare si sta occupando delle prenotazioni in partenza. In realtà, solo con il passare dei giorni sarà possibile capire cosa riserva il futuro ai viaggiatori già prenotati, a quelli in viaggio e a tutti i circa 40.000 possessori di formule d'usufrutto di soggiorni Venta Club per 5, 10 fino a 20 anni, tutti prepagati. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Io vedo già che numerosi ascoltatori stanno cercando di prenotarsi al nostro centralino e volentieri li sentiremo tra poco. Presidente Corbella, presidente di Astoi, l'associazione dei tour operator, va subito precisato che Viaggi del Ventaglio non era una vostra associata e la vostra associazione è stata duramente anche contestata nei giorni scorsi da un'associazione dei consumatori che veramente polemizza sempre con tutto e di più, con tutta la mia massima stima per il presidente, adesso neanche la cito. Detto questo, questa cifra che è circolata sui giornali, perché non è poi circolata sulla Gazzetta di Casal Pusterlengo ma sul Corriere della Sera dei giorni scorsi, si parla di 16.000 famiglie vittime del crack. Io non so come sia stata costruita questa cifra, a me sembra piuttosto alta. Vi risulta intanto? Avete fatto degli accertamenti anche in questo senso? E quante famiglie ci sarebbero sparse per il mondo che sono in attesa di essere rimpatriate perché, avendo comprato un pacchetto con Viaggi del Ventaglio, non riescono a ritornare a casa? Perché anche questa mi pare una situazione che è molto improbabile. Allora, partiamo dalla cifra. Io credo che si sia trattato di un refuso di stampa. Negli stessi giorni del fallimento del Ventaglio è fallito un operatore inglese e la stampa britannica e le agenzie hanno dato questo numero di 16.000 passeggeri colpiti dal fallimento di questo operatore inglese. Credo che nella concitazione degli eventi le due voci si siano mischiate e quindi impropriamente il Corriere abbia ripreso questa cifra dei 16.000, delle 16.000 famiglie. Per quanto riguarda le persone in giro, noi abbiamo immediatamente allertato i nostri soci, perché pur non essendo, come lei ha ricordato, Ventaglio un nostro socio, che sempre in questi casi nostra cura cercare di minimizzare l'impatto per i consumatori, consapevoli del fatto che consumatori insoddisfatti non giovano a nessuno, quindi non è importante in questi casi fare il distinguo della nostra famiglia o non è della nostra famiglia. Esatto, infatti molto responsabilmente bisogna rispondere per il settore in sostanza. Certamente sì, ci siamo quindi subito coordinati con l'unità di crisi della Farnesina e abbiamo messo a disposizione, compatibilmente con le capacità che c'erano, i nostri trasporti, perché laddove ci fosse sono state segnalazioni di passeggeri da riportare a casa, eravamo disponibili a farlo. Posso dire che ad oggi, ormai siamo a mercoledì, non abbiamo dovuto riportare a casa nessun passeggero e questo è un dato piuttosto confortante, perché poi la maggior parte delle vacanze iniziano durante il weekend, sabato e domenica. Il fatto che nessuno abbia chiesto questo tipo di assistenza e di servizio vuol dire che passeggeri in giro abbandonati non ce n'erano. Anche su quelli in partenza credo che si mischino una serie di informazioni. Il gruppo Ventaglio era composto da varie realtà. Una, come citato correttamente nella scheda, era la realtà che vendeva multiproprietà, quindi un tipo di servizio abbastanza diverso. Queste persone sono quelle che presumibilmente hanno soprattutto presentato le denunce per poter avere soddisfazione dei soldi da loro pagati per l'acquisto di queste multiproprietà. Le preannuncio già che ci sono già diversi ascoltatori in ascolto, collegati telefonicamente con noi, che vogliono raccontarci proprio di questa loro vicenda, avventura, chiamiamola come vogliamo. Poi la lascio concludere, Presidente. Sì. Per quanto riguarda invece i viaggiatori, diciamo, tradizionali, acquirenti di pacchetto, poiché era noto a tutti ed era peraltro pubblicizzato sullo stesso sito del Ventaglio, nella sua home page, cioè scritto società in concordato preventivo, il mercato, nonostante i ripetuti appelli sia di Ventaglio stesso, sia delle persone che cercavano di portare avanti questo concordato preventivo, che tendevano a rassicurare, che ovviamente hanno tentato l'impossibile per salvare una società, cosa non solo legittima, ma anche dovuta doverosa, ai dipendenti, ecco, perché infatti pensiamo che ci sono centinaia di persone che da questo momento saranno in mezzo a una strada, oltre a tutti i fornitori che non vedranno più soddisfazione ai loro crediti. Quindi c'è stata questa operazione legittima di cercare di salvarla. Non entro nel merito, era giusto, era possibile, non era possibile, non sta a me dirlo. No, infatti, ormai certamente rispetto all'osservazione che lei ha fatto di qualcuno che ha detto che avremmo dovuto avvertire il mercato. Primo, non era nemmeno un nostro associato, ma per una società quotata in borsa, se mai avessimo fatto una cosa del genere, avremmo rischiato, e qui c'è un avvocato in linea con noi, una denuncia penale, un rischio addirittura di aggiotaggio. Per aggiotaggio, turbativa del mercato e quant'altro. Perfetto. Di fatto chi fa il controllo sul mercato finanziario, che è la Consob, aveva inserito questa società, lo ribadisco ancora, nella lista delle cosiddette società in situazioni precarie, la blacklist, peraltro aveva contestato almeno per due volte consecutive il bilancio del gruppo. Pertanto, insomma, i controlli che dovevano essere fatti, di fatto le prenotazioni, questo gruppo ha continuato a prenderle ancora per lungo tempo, ha accontentato anche migliaia di turisti, perché poi non è che tutti quanti, anche perché sennò questa cosa sarebbe esplosa molto tempo prima, e adesso ci troviamo invece a gestire questo crack finanziario e la situazione di persone che invece non possono più utilizzare i pacchetti, soprattutto con la formula dell'abbonamento e la multiproprietà di cui adesso spiegheremo, che hanno acquistato. Però avvocato Ferrari, le chiedo ancora un minutino di pazienza, io magari comincio a chiacchierare con lei nella seconda parte di Salvadanaio, perché c'è un altro punto da specificare, perché ci sono molti marchi riconducibili a Viaggi del Ventaglio, ma per qualcuno la situazione è finita, tramontata, per altri no. Allora io voglio subito sentire Angelo da Roma, perché questo è un aspetto che va immediatamente precisato. Angelo, buongiorno, rapidissimo, la ringrazio. Sì, buongiorno. No, la mia esperienza è questa. Io un mese fa dovevo prenotare un viaggio in Siria che poi ho effettuato con un altro operatore, e presso un'agenzia di viaggi della Cisalpina mi è stato proposto Best Tour come tour operator. Io sapevo della situazione dei Viaggi del Ventaglio, quindi non mi sono fidato di questa offerta. Però volevo segnalare il fatto, appunto, che fino a un mese fa in agenzia ancora veniva proposto un tour, un Best Tour, che è comunque legato ai Viaggi del Ventaglio. Sì, Angelo, però guardi, vado subito da Corbella, perché su questo punto ci eravamo ripromessi di parlare. Best Tour è una partecipata del Ventaglio che ancora continua a lavorare tranquillamente, semmai subisce pure essa questa situazione, Presidente. Esattamente così. Quindi Best Tour è una società che è partecipata da Ventaglio, ma non è parte del concordato, non era parte del concordato preventivo e non è oggetto di fallimento. Quindi sta operando regolarmente, continua a far partire i suoi passeggeri in maniera normale e sta facendo fronte a tutti i suoi impegni. Quindi possiamo tranquillizzare coloro che hanno acquistato un prodotto Best Tour. Esatto, e semmai, appunto, per problemi reputazionali sta subendo questa situazione. Allora, oggi parliamo delle conseguenze del crack di Viaggi del Ventaglio e di tutte le famiglie rimaste appese a questi pacchetti vacanza comprati e che adesso non si possono più utilizzare, ma soprattutto perché ha comprato queste multiproprietà sparse un po' per il mondo, e chissà se adesso possono andare a godersi queste vacanze, anche perché sono ovviamente acquisti ed investimenti fatti per sempre. E allora che succede? Vi faccio ascoltare Luca da Varese, che ci vuole raccontare proprio questo, e poi vado immediatamente, mi scuso che ancora non sono riuscita a sentirlo, dall'avvocato Giovanni Ferrari, presidente dell'Associazione Casa del Consumatore. Luca. Sì, buongiorno, salve a tutti. Buongiorno. Innanzitutto io volevo far presente che noi abbiamo acquistato 3-4 anni fa il pacchetto 5 and 5, che è un pacchetto che ti permette di usufruire, pagando chiaramente in anticipo, di una serie di sconti e di vacanze per i prossimi 20 anni. Sì. Era presentato in questo modo. Sì, era una loro formula tipica, sì. Noi chiaramente abbiamo fatto questo investimento sapendo che comunque ci sarebbero stati degli sconti, ci sarebbe stata la possibilità di andare in vacanza ogni anno con Ventaglio, con cui comunque ci siamo sempre trovati molto bene. Quindi già lei ha usufruito di questo pacchetto, Luca? Abbiamo già usufruito, sì, per 4 anni. Benissimo. Nei vari villaggi di ventaglio, anche usufruendo di formule particolarmente competitive sul mercato. Il problema è che ad oggi noi abbiamo 16 anni di vacanze ancora da sfruttare che non potremo sfruttare. Luca, le posso... prezzo di 18.000 euro. Ecco, esatto, infatti volevo capire anche a quanto le è costato questo giochetto, che poi non è per niente un giochetto, perché finché la barca è andata, il meccanismo è funzionato, naturalmente andava tutto bene per tutti quanti. Allora, avvocato Ferrari, sono da lei e mi pare di capire, io mi sono stampata un po' di testimonianze rese al vostro blog della vostra associazione dei consumatori e ho visto molte testimonianze simili a quella che ci ha reso adesso Luca da Varese. Sì, tantissime persone si sono rivolte a noi, al nostro blog, con situazioni simili a queste, cioè l'acquisto di vacanze per tanti anni, potevano essere 10 anni, 15 anni, 20 anni, pagamento in anticipo e possibilità in seguito o di avere dei punti da spendere ogni anno, una cosa simile a quella che ha detto adesso l'ascoltatore, oppure la possibilità di andare in un determinato villaggio o di scambiare la propria settimana, la propria vacanza in altri villaggi del circuito Ventaclub. Faccio solo una precisazione, avvocato, perché Luca ha pagato in anticipo, ma molti ascoltatori hanno associato al pacchetto turistico anche un contratto di finanziamento e stanno pagando a rate, per cui ci sono sì, anche altre situazioni. Noi ne stiamo tutelando vari di questi perché riteniamo che possano liberarsi dall'obbligo di pagamento. È proprio adesso all'esame del Senato una modifica dei finanziamenti di credito al consumo. Sì, che c'è in corso la discussione sulla riforma, sì. E comunque era già giurisprudenza comunitaria che laddove venga meno il contratto base, visto che si tratta di contratti collegati, il consumatore sia liberato dall'obbligo di pagare il residuo finanziamento, anzi abbia diritto a riavere le somme che ha già pagato nella misura ovviamente non usufruita. Detto questo, allora Viaggi del Ventaglio è fallita, avvocato Ferrari, 16 anni di pacchetto turistico già praticamente comprati, le località presso le quali queste vacanze si possono fare però non sono fallite, nel senso esistono ancora, ma se non c'è più la struttura tutta circostante immagino che non se ne possano fare niente. Cosa può fare questo ascoltatore a questo punto? Poi vorrei sentire da Corbella anche il tema del fondo di garanzia del Ministero del Turismo, ma in questo caso per esempio la procedura di insinuazione al passivo che viene tanto evocato in ogni procedura fallimentare, si può attivare, sì, in questo assolutamente, caso? Assolutamente, avranno un po' di difficoltà nel calcolo del credito, perché non è così semplice da calcolare proprio perché veniva aggiornato di anno in anno e noi abbiamo già aiutato tutte le persone che hanno aderito alla nostra iniziativa nei mesi passati a calcolare il loro credito in sede di concordato, perché poi ci doveva essere una votazione dei creditori per approvare oppure respingere questa proposta di concordato. Lo stesso problema si porrà anche per calcolare il credito residuo per la missione al passivo, cosa che deve essere fatta entro il 20 di dicembre di quest'anno, perché è stata fissata l'udienza al 19 di gennaio per la verifica dei crediti. I creditori che non hanno potuto sfruttare i loro pacchetti vacanza o non potranno appunto vedere soddisfatto pienamente il contratto come quello citato da Luca, Vacanze nel Mondo 5 and 5, sono dei creditori privilegiati o di secondo livello, i cosiddetti chirografari, avvocato Ferrari? E questo è un aspetto importante ai fini poi del poter ottenere un ristoro rispetto a questa vicenda? Sono quelli che purtroppo si chiamano chirografari, cioè quelli che sono gli ultimi ad essere pagati, non hanno nessun tipo di privilegio, purtroppo si trovano spesso ad avere una brutta sorte, come è successo ai clienti di Todo Mondo, che si sono ritrovati tutti purtroppo con un pugno di mosche in mano. Noi stiamo avviando un'iniziativa per cercare di spostare un pochettino il tiro, perché secondo noi questi clienti se la possono prendere più che con i Viaggi del Ventaglio o assieme ai Viaggi del Ventaglio, anche proprio con le società estere con cui loro hanno concluso i contratti, perché per quello che abbiamo visto noi hanno sempre concluso contratti con società estere che sono poi le proprietarie o erano le proprietarie dei villaggi, e quindi anche se erano proprietarie nel cedere l'attività del villaggio devono aver ceduto anche i debiti per forza. Quindi in qualche maniera in questo caso è come se Viaggi del Ventaglio fosse stato un intermediario? Un intermediario chiaro, infatti compariva proprio, invito i clienti a andarsi a rivedere i loro contratti, compariva come procuratore, cioè semplicemente una persona, una società incaricata in Italia di operare per queste società estere, le quali società estere, tra l'altro lo dice bene proprio il Sole 24 Ore di oggi, varie sono controllate dalla Viaggi del Ventaglio International SA, quella che ha sede in Lussemburgo e che è fuori dal discorso, era fuori dal concordato e resta fuori per ora almeno dal fallimento. Poi andremo anche al tema delle multiproprietà, anche in questo caso acquistate, sottoscritte da molti consumatori. Volevo ritornare al presidente di Astoi, Roberto Corbella, perché mi chiedo se questi soldi investiti dal nostro ascoltatore Luca dalla provincia di Varese ha tirato fuori 18.000 euro per assicurarsi vacanze per 20 anni con Viaggi del Ventaglio, ne ha sfruttati solo 4, se potrà mai essere risarcito anche dal fondo di garanzia di cui parliamo tanto spesso, non si capisce quanto abbia in pancia, e però magari insomma con questa nuova platea di richiedenti potrebbe essere una coperta, come spesso capita per tante vicende anche di risparmio tradito, troppo corta, presidente, per accontentare tutti e risarcire tutti. Certamente sì, allora, il nostro mondo si evolve molto rapidamente, quindi abbiamo bisogno anche di strumenti adeguati a quelle che sono le esigenze. Il fondo di garanzia che oggi esiste presso il Dipartimento del Turismo è stato concepito diversi anni fa e alimentato esclusivamente da una percentuale che tutti gli operatori come noi pagano sulle polizze assicurative, ma questo fondo intanto non ha una gestione molto tempestiva perché è stato concepito con dei marchingegni un po' complessi e soprattutto non ha una capienza tale per far fronte a impatti significativi come quelli dell'anno scorso di tutto mondo. Come dicevo, non mi aspetto grosse cifre per il caso del Ventaglio. Noi abbiamo in questi giorni stiamo scrivendo una lettera al Ministro per chiedere conto comunque di qual è la capienza del fondo esattamente, che da voci dovrebbe essere intorno ai 200 e rotti mila euro, quindi non tanti per far fronte a tutti i vari casi, ci sono ancora pendenti tutti i casi dell'anno scorso. Noi proponiamo da tempo invece un'altra formula che è molto simile a quella che esiste in altri paesi, cioè riteniamo che un viaggiatore, non parlo più solo di turista ma parlo di un viaggiatore in genere, debba essere sereno nel momento in cui compra il suo viaggio, perché questo può consentirgli così di prenotare con largo anticipo, può consentirgli di programmarsi meglio eccetera, senza l'ansia di dire se succede qualche cosa. D'altra parte, prima abbiamo detto che le informazioni sul Ventaglio erano sicuramente note, certamente molto agli addetti ai lavori, meno al consumatore finale che non sempre va a guardare tutte le informazioni pensando ad una vacanza. Allora, l'idea di questo fondo, che sarebbe alimentato da 50 centesimi incassati sui diritti di imbarco di ogni biglietto aereo, creerebbe una cifra significativa adeguata tale da poter coprire tutti i casi di fallimento di compagnia aerea, di tour operator, di agenzie di viaggi, nonché tutti i casi che con un brutto termine sono chiamati di sconsiglio dell'unità di crisi della Farnesina. Un esempio recente è quello della nube dell'Islanda. Sì, sì. E Jafjallajökull, il vulcano, esatto, che ci ha messo anche alla prova con un nome impossibile. Allora, in quel caso sono stati solamente gli addetti ai lavori, gli operatori che hanno dovuto farsi carico di tutti gli oneri, ma io ho detto pubblicamente già in quell'occasione che non avremmo potuto continuare a farlo perché sono degli esborsi enormi. Il fondo in questo caso potrebbe intervenire sia per rimpatriare i passeggeri che sono all'estero, sia per rimborsare coloro che non riescono più a partire. E intanto, nella speranza che naturalmente le sue proposte trovino accoglienza nelle sedi opportune, presidente, dobbiamo cercare di dare una mano a chi invece a questo punto le proprie vacanze per i prossimi 15 anni non le potrà fare, perché praticamente ha già messo in campo tutti gli investimenti possibili e però insomma questi soldi sono andati in fumo, quindi speriamo che, come dire, diventi operativo e concreto in tempi assolutamente rapidi, non dico ragionevoli ma anzi rapidissimi, questo fondo di garanzia per risarcire queste persone. Allora, tra l'altro, sì, devo andare già ai suggerimenti perché in viaggio, allora sento Elvira da Brescia, perché poi vorrei sollevare anche un altro aspetto col presidente Corbella, cioè di questa formula dell'abbonamento pluriennale, perché io sarò anche Alice nel Paese delle Meraviglie, ma in genere quando mi organizzo una vacanza, detto fatto, la organizzo, la faccio, la pago e basta. Non sapevo che fossero così diffuse queste formule dell'abbonamento pluriennale, delle vacanze con uno stesso soggetto, anche se poi magari si possono fare in località diverse. Sento Elvira da Brescia rapidamente e poi poi vado e via. Sì, Elvira. Pronto, grazie. Ho seguito con attenzione quello che ha detto anche l'avvocato. Per quanto riguarda la mia situazione, è una situazione veramente anomala, perché avevo comprato questo pacchetto, ma io per una serie disgraziatissima che non te che racconti, non ho mai fatto un viaggio. Uh-huh. Quest'anno che avevo deciso di dire no, recupero tutti gli anni passati facendo tanti viaggi, è fallita la società. La legge di Murphy, Elvira, è impietosa. Quanti anni aveva sottoscritto di abbonamento? Ma avevo 20 anni, ma quando ho fatto l'abbonamento io avevo comprato una multiproprietà a San Domingo. La multiproprietà in questo caso, sì. In questo caso era multiproprietà, che poi dice che non si poteva più, si poteva girare, fare altri paesi, eccetera. Però per una situazione di disgraziata che non sto a raccontare. Sì, non, sì, non, ma insomma capita, Elvira, la vita è strana. E... Sì, la vita è molto strana. Perché ho pagato un pacchetto che non ho mai utilizzato, sempre 000 c'era a fine anno, perché mi mandavano quando ho preso conto. Un resoconto, un estratto, quindi, conto della vacanza. Della vacanza, quindi era sempre così. E quest'anno ho deciso niente. Allora in questo caso cosa faccio? Perdo tutto, mi ha utilizzato. Elvira, ma come si fa a vincolarsi per tutti questi anni con un tour operator? Forse è il caso che programmiate delle puntate preventive, ci suggerisce Franco da Verona. Sì, è una modalità molto curiosa anche per me, Franco, io lo devo ammettere, non la farei una scelta di questo tipo, però questo non significa che dobbiamo guardare con assoluto rispetto chi invece predilige una modalità di questo genere. Avvocato Ferrari, allora, l'abbonamento pluriennale alla vacanza e la multiproprietà sono due cose diverse che immagino Viaggio del Ventaglio vendeva. Ma sono assolutamente diverse. Tra l'altro, questi sono anche poi i presupposti che hanno un po' portato al fallimento della società, e per questo noi riteniamo che ci sia ancora tanto da dire e da fare per la tutela dei clienti. Cioè c'è un po' troppo situazione fumosa intorno a questi clienti e ai loro diritti. La signora che chiamava prima, la multiproprietà è un diritto reale che è collegato alla cosa, e la signora deve stare tranquilla. Quell'edificio potrà... esiste, anche se non ha mai potuto sfruttare, certo, la sua permanenza a Santo Domingo, però magari... Deve poter andare, probabilmente pagherà le spese condominiali, non più alla società che aveva in gestione quel villaggio, ma ad un'altra, però se ha una multiproprietà deve poterci andare a costo, ecco, questa può essere l'unica vera fregatura, di trovare una struttura fantasma, perché purtroppo se nessuno la gestisce, però se una struttura c'è, funziona e ha clienti, non vedo perché non dovrebbe continuare. Quindi Elvira, prima cosa, potrebbe intanto fare un accertamento per verificare se ha l'opportunità intanto di sfruttare questa settimana di vacanza, avendola già immagino prenotata e concordata in via preventiva, perché non è che là si possa andare, cioè le settimane, certo, sono tutte scrupolosamente pianificate, per cui prima cosa è questa. E quindi magari Elvira potrebbe essere nelle condizioni di poter continuare ad utilizzare il pacchetto che ha acquistato. Potrebbe essere tra quelli che potrebbero trovarsi nelle condizioni. Noi abbiamo avuto vari casi come questi, alcuni hanno ricevuto per esempio delle comunicazioni da una nuova società che segue la multiproprietà e possono continuare i loro rapporti. È chiaro che se hanno fatto dei pagamenti anticipati resteranno purtroppo danneggiati dal fatto che magari risultano creditori, però devono poter continuare a usufruire di questo loro pacchetto vacanza, come ritengo anche per quelli che hanno aderito alle formule di club. E poi ci si chiedeva perché questi contratti così lunghi. Effettivamente da un lato me lo sono chiesto anch'io, dall'altro sconsiglio in generale questo tipo di formule, perché anche con la buona volontà purtroppo le cose possono andare male per qualsiasi tour operator. Questo è vero, però sai, insomma, utilizzavano delle formule bene. Magari esatto, ma perché magari andavano bene per le famiglie, chi ha bambini, i villaggi erano sempre molto molto ben curati, insomma. Adesso è stato anche un 34 anni di storia di un gruppo che ha sempre ben operato nel nostro paese. Poi le difficoltà finanziarie sono intervenute, adesso si sia trattata di gestione allegra delle finanze, questo la Procura di Milano lo appurerà anche, magari poi questa famiglia Colombo pagherà anche per questo, ma adesso questo è un aspetto che non ci interessa, lo valuteremo in un secondo momento. Detto questo, adesso vediamo un po' di capire cosa devono fare coloro che hanno prenotato una vacanza con questo marchio, anche se poi mi diceva il presidente Corbella, perché dice che sul sito ancora appaiono le proposte di vacanza, le possibilità di prenotare, che in realtà, andando sul sito di Viaggi del Ventaglio, si possono fare eventualmente, Presidente Corbella, dei preventivi di vacanza, ma non era possibile sottoscrivere attraverso il canale internet i pacchetti viaggio, no? Allora, attualmente non è possibile fare più nulla perché esce una schermata che dice manutenzione. Prima in realtà era ancora reso visibile il prodotto, si poteva chiedere preventivo, ma non veniva poi ultimata la pratica, quindi non veniva data conferma, questo da post fallimento. Quindi anche qui c'era un'informazione. Voglio dire una cosa per coloro che potessero, allora, ho già detto che le agenzie avevano di fatto quasi tutte smesso di vendere il prodotto ventaglio perché erano preoccupate della situazione, eccetera. Laddove ci fosse qualche consumatore che ha acquistato presso un'agenzia, suggerirei di presentarsi subito nell'agenzia e vedere di spostare l'acconto, il pagamento che ha già fatto, su un altro prodotto. Se l'agenzia non ha a sua volta girato i fondi a ventaglio, lo può fare senz'altro, o magari lo ha fatto solo in maniera parziale. Quindi questo potrebbe aiutare alcuni consumatori a risolvere il problema anzitempo. Presidente, le faccio sentire allora Ennio da Bari. Sentiamo se questo è un suggerimento che può essere utile per il suo caso. Ennio. Sì, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Io ho sentito un po' le cose, io solo che mi trovo in una condizione un po' strana, nel senso che io ho prenotato la partenza per il 24, questo 24 prossimo. No? Quindi domenica, sabato, sì. Sì, loro giustamente hanno chiesto il saldo. Loro chi, Ennio? Si è rivolto ad un'agenzia? No, direttamente la Ventaglio. Ah, però... Sì, direttamente da loro, io c'ho tutto lo scambio di email, che poi chi mi rispondeva era la Columbus, rispondevano per email scritto, dove hanno chiesto prima un acconto, no? E si immagini una vacanza di 4 adulti, 2500 euro. Dove deve andare Ennio, tra l'altro? In Calabria, in Calabria, in un villaggio in Calabria, che si poteva prenotare solo tramite la Ventaglio. Ennio, quando intanto ha fatto tutte queste prenotazioni per capire se c'è anche un po' di dolo? Allora, tutta la prenotazione è stata fatta i primi di luglio. Fatta la prenotazione hanno avuto l'acconto, poi hanno chiesto il saldo 10 giorni prima, cioè il giorno 14. Ecco. Io ho fatto i bonifici, loro mi hanno risposto che hanno incassato, cioè che hanno ricevuto tutte le contabili dei bonifici e che mi avrebbero mandato i documenti voucher per l'ingresso. Io poi ora mi ritrovo oggi che ho provato a sentire loro, loro non mi danno risposta, certo. Ho sentito il villaggio direttamente, loro dicono ma forse sono coperti gli ingressi dal 24 al 31, ma io ora mi trovo che nella settimana di ferie che ho preso non so se devo poter andare, ormai è anche tardi, a prenotare da qualche altra parte, mi è saltata tutta la settimana di ferie. Certo, Ennio. Qua c'è un danno anche di ampia natura, mi sento anche di dire quasi morale, perché avvocato Ferrari, ma insomma questo pacchetto vacanza è stato venduto praticamente mezz'ora prima della dichiarazione di bancarotta, fra un po'. E questo non è stato mica tanto corretto da parte della società. Allora è vero che allora qualche pacchetto ancora lo vendevano? Noi, guardi, l'anno scorso per todo mondo, per situazioni del genere, abbiamo fatto 150 denunce perché... Se un'azienda sa che non è più in grado di far fronte agli obblighi che assume, non deve più assumerne. Però lì magari c'era rispondere al telefono un impiegato che aveva direttive contrarie. Presidente Corbella, di Astai, che cosa facciamo fare a Ennio? Gli facciamo insistere di chiamare il villaggio presso il quale dovrebbe andare a fare la sua vacanza fino a mezz'ora prima di partire? Cosa deve fare questo poveretto? Allora, penso che intanto lo scenario sia successo questo, la comunicazione del fallimento è uscita addirittura prima sulla stampa, prima che fosse depositata, quindi presumo che chi operava ha continuato a fare le prenotazioni fino all'ultimo momento, convinto che la cosa non desse problemi. Non si concretizzasse. L'unico interlocutore, visti i tempi così stretti, può essere il villaggio. Allora, io proverei a insistere col villaggio dicendo, producendo tutta la prova dei pagamenti, eccetera, se il villaggio, come presumo, vanterà comunque dei crediti anche già importanti nei confronti di Ventaglio per tutta la situazione, cercare che, e comunque difficilmente a pochi giorni di distanza può riempire con altri clienti, potrebbe essere, come dire, abbastanza flessibile da consentire una vacanza a questi signori. Ovviamente non ne ha un obbligo in questa situazione, però io un tentativo lo farei, quindi consigliere di insistere con il villaggio, eventualmente offrendosi di di offrire qualche cosa di integrazione, ma potrebbe essere un gesto molto positivo da parte del villaggio, tutelerebbe il cliente e credo che la sua situazione creditoria nei confronti del ventaglio non si sposterebbe particolarmente per effetto di questa famiglia. Tra l'altro quella di Ennio è una situazione che mi ricorda molto anche i casi più clamorosi di risparmio tradito, Parma, Latte Ciri e l'Argentina, tanto per citare i soliti noti, e mi ricorda un po' i frangenti in cui i sottoscrittori di questi prodotti di investimento li avevano per l'appunto sottoscritti a ridosso dei crack finanziari, perché ancora le banche facevano circolare questi, anzi suggerivano in certi casi anche questi investimenti, per cui chiaramente poi davanti ad un'azione legale, avvocato Ferrari, qui magari lei mi può aiutare, è chiaro che aver acquistato un pacchetto vacanze in un momento piuttosto che in un altro può essere anche un motivo per avere una ragione in più in un'azione legale, no? Non so se può essere anche motivo di far valere una responsabilità anche di altri soggetti, quale potrebbe essere ad esempio l'agenzia di viaggi che non avesse informato sulla situazione della società, insomma. È ovviamente da vedere caso per caso, però più ci si avvicina alla data dell'ammissione del concordato, alla data del fallimento, eccetera, è chiaro che peggiora la situazione di chi ha venduto queste vacanze senza informare della situazione. Certo, e col senno di poi facciamo fare il commento conclusivo a Marco da Treviso, che saluto. Marco, rapido se riesce perché devo chiudere, buongiorno. Sì, buongiorno. Io non entro nel merito delle multiproprietà di villaggi vacanze, però volevo solo segnalare che già da 4 anni credo che Viaggi del Ventaglio sia nella blacklist della Consob. Dal 2005, da 5 anni. Esatto, io ho sempre viaggiato con loro fino al 2004-2005, non appena ho letto, e poi non è una notizia che è solo in qualche trafiletto di giornale specializzato, era su tutti i giornali che questa società era in blacklist, vuol dire che non aveva i bilanci a posto. Io dal 2005 non ho più fatto un viaggio con loro. Marco ha ragione, però siamo al 2010, fino all'altro giorno i pacchetti vacanza li hanno venduti e molti turisti, molti viaggiatori sono stati assolutamente contenti anche delle vacanze fatte fino a questo momento. Sono passati ben 5 anni perché, giustamente diceva Corbella, si è fatto di tutto per salvare un gruppo enorme, un vanto anche per il turismo italiano, e anche perché non ci dimentichiamo che ci sono centinaia di persone che ci lavorano, per cui chiaramente l'abbiamo tirata per le lunghe anche per questi motivi. Per cui ha ragione lei, ha ragione tutti quanti in questa vicenda, e però poi c'è chi rimane con le pive nel sacco. Presidente Corbella, mi sa che la risentirò presto, chissà, buona giornata intanto. Augurare buone vacanze a tutti. Senz'altro, intanto anche a lei, se non dovessimo più risentirci. Avvocato Ferrari, grazie. Io ho già idea che le girerò molte riflessioni di molti ascoltatori, soprattutto molte richieste di assistenza per questa vicenda. Buona giornata, grazie. Anche a lei. Grazie a voi. Buona giornata. Grazie anche a Gaia Romani, Roberto Scaltritti per la regia. Noi ci sentiamo domani. Buona giornata.